l'aria si gela, tutti sotto coperta al buio, alla luce di una candela. Si visiona chi rimane, si dà seguito a chi c'era, resta bene, non dispera, in una new routine. Niente big, solo chi rimane a galla nella shit, tiene il tempo con un passo pesante di un subkick. Troppi drip di autonominati kings, la mia street attutisce la rabbia dei miei beats. E allora baby, voi e fly girls in vista, ho l'adrena che avvelena ogni tema del sistemista. Tanto se guardi a destra, guardati anche a sinistra, l'unica cosa libera è lo stile dei freestyle. È la mia vista, underground solution a risposte, di noto nulla è solo che vediamo quanto costa. Vendere la coerenza per stare su una rivista, sentire commenti da chi sta in piedi e non ha ossa. E allora, il gas a terra, marionette in scena su un palco, spara un colpo che avverta. Energia da sotto invade e drena, terreni resi aridi dall'odio in piena. Ogni cassa a terra, marionette in scena sul palco, spara un colpo che avverta. Energia da sotto invade e drena, terreni resi aridi dall'odio in piena. Lascio segni con parole su cabine, con marker a testa quadra, come la linea che identifica una squadra. Magista notturno, schivo le tue palette, serve tempestività, rapidità e meno incertezze. Fissa le lancette, il mio tempo non ha tregue, solo il tempo per bruciare i club con le robe grezze. Perse, lascio il caos per zone diverse, se dovessero chiederti hanno ucciso le tue feste. Gente, troppa gente che passa, il 50% di queste si passa, il 40% pensa alla cassa, il restante non cambia, resta vero e salta. Quindi alza la voce bro che si incanala il flusso, arrogante arriva in faccia a chi fa il rapper di lusso, di gusto illuso da chi promette introiti, e se ne vuoi tu ne puoi avere finché non vuoi. Allora, di cassa a terra, marionette in scena su un palco, spara un colpo che avverta. Energia da sotto invade e drena, terreni resi aridi dall'odio in piena. Ogni cassa a terra, marionette in scena sul palco, spara un colpo che avverta. Energia da sotto invade e drena, terreni resi aridi dall'odio in piena. Yeah, man. I heard this. I heard